Incontri di Gianfranco Fabi. Tutti gli uomini saranno fratelli, questo è l'inno alla gioia di Beethoven. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Iniziamo con questo inno, l'incontro di oggi con Maria Giovanna Garutti, partner di ISMO. Spiegheremo poi cos'è l'ISMO, intanto spieghiamo perché ha scelto l'inno alla gioia di Beethoven. Ma ho scelto l'inno alla gioia di Beethoven per questa ragione, la prima musica che mi è venuta in mente, quindi evidentemente in questo momento è nel mio spirito. Perché gli antichi dicevano che abbiamo diritto, tendiamo alla felicità, concetto molto sfuggente, forse irraggiungibile, però possiamo darci o cercare nella vita quotidiana tanti momenti di gioia, anche molto semplici nell'esperienza quotidiana, nel mettere a posto il proprio terrazzo piuttosto che nel leggere un bel libro, e essere accompagnati da un inno alla gioia può essere un modo per tentare la felicità. Ecco, forse è per questo che lei, laureata in lettere e filosofia, poi è diventata consulente d'impresa, perché l'ISMO è una realtà associativa di consulenti che operano nell'ambito dell'organizzazione aziendale, delle risorse umane e così via. Ecco, si spieghi un po' cos'è l'ISMO. Allora, l'ISMO è un gruppo professionale che è nato tanti anni fa, ormai lavoriamo da tanto tempo. Io ero piccola all'inizio della storia dell'ISMO, che è nato a cavallo fra il 72 e il 73, io mi laureai appunto nel luglio del 72, fu un'avventura. Quindi hai cominciato con l'università nel 68? Ho cominciato nel 68, io sono una sessantottina, qua dell'Università Cattolica di Milano, all'epoca degli Schianchi, all'epoca di Capanna, appena uscito dai collegi della Cattolica, tutto il 68. Posso dire che c'ero anch'io. Tutto il 68. E gli anni 70 sono stati gli anni che hanno visto in Italia sostanzialmente il nascere di questa attenzione alle risorse umane, quelle che adesso si chiamano risorse umane, che io preferisco chiamare persone e non risorse. Persone, e quindi con una grande attenzione anche ai fenomeni sociali, relazionali, culturali che stavano all'interno delle organizzazioni e delle imprese. E in Italia è nato sostanzialmente in quegli anni, intorno a quegli anni, è nata quella che poi è diventata la formazione manageriale, la consulenza rispetto allo sviluppo delle persone, e che ha avuto momenti di grande fulgore, forse oggi ha qualche problema. qualche difficoltà. L'ISMO è stato sicuramente, insieme ad altri, ma uno dei primi gruppi professionali a occuparsi di questo, a occuparsi di gruppi, di lavorare con i gruppi, di introdurre all'interno delle organizzazioni il concetto di partecipazione, il concetto di non direttività nella formazione, quindi non che ti devo infarcire la testa di nozioni già fatte, ma piuttosto aiutare l'emergere di nuove nozioni o di nuovi concetti o di nuove parole, quelle che parlavano e parlano dell'esperienza degli uomini e delle donne all'interno delle organizzazioni. Abbiamo iniziato questa avventura, eravamo pochi, allora è andata molto bene. Oggi siamo intorno alla sessantina di persone che continuano a fare questo lavoro, questo mestiere. Ecco, lei nei primi anni, appunto abbiamo parlato del 68, forse il 68 è stato importante perché è stato poi superato, ha posto qualche radice, ha rotto qualche muro, ma poi si è andati oltre fortunatamente. Lei ha avuto poi negli anni anche delle esperienze vicine, le esperienze teatrali, come mai questa... Ma in realtà è una storia che nasce dall'università, qui devo citare una persona purtroppo scomparsa recentemente, che è il professor Sisto Dalla Palma, perché all'Università Cattolica di Milano c'era una cattedra di storia del teatro gestita per molti anni dal professor Apollonio e poi passata al giovane professor Sisto Dalla Palma. che aveva idee molto rivoluzionarie per il teatro di allora. È stato il fondatore del CRT, Centro Ricerche per il Teatro, e ci avviò sostanzialmente quei pochi studenti che eravamo a questo corso a un'idea di teatro esattamente come teatro che nasce dalla radice popolare, dalle feste, dall'improvvisazione, dall'espressione di se stessi, e che poi è diventata una, come dire, una passione che è rimasta ed è diventato una riflessione che si sposava bene con l'idea della non direttività, del dar parola alle persone, di dare voce, di riscoprire nel tessuto sociale le forme di cultura, non quelle paludate, non quelle alte, ma quelle che tutti sviluppiamo nel nostro agire. Quindi è diventato anche un mezzo, uno strumento per fare formazione. Ecco, perché forse vissuto in questo modo il teatro non è più solo una rappresentazione di qualcosa di esterno, ma diventa anche creatività, la possibilità di un'espressione all'interno di questa realtà. Diventa esattamente la possibilità, attraverso altri mezzi espressivi, di metterti in contatto sostanzialmente con dimensioni del tuo spirito, della tua esperienza, del tuo animo, e anche di trasformare quelle che sono le posture un po' irrigidite, un po' stereotipate, quelle che ti mettono addosso sostanzialmente nei ruoli, no? I ruoli. Ecco, tra un palcoscenico e l'impresa, che connessioni ci possono essere, che similitudini ci possono essere? Ma come la usiamo noi, questo tipo di esperienza? È ovvio che tutto, l'impresa piuttosto che il sociale, tutto possiamo leggerlo come rappresentazione, come palcoscenico. Tutti noi siamo sempre su un qualche palcoscenico, perché viviamo all'interno di costrutti, viviamo all'interno di ruoli che ci creiamo e che ci creano contemporaneamente. Questa è la dimensione sostanzialmente forte del vivere quotidiano. Cosa succede in questi palcoscenici? Succede che alle volte questi ruoli, ma non lo dico io, lo dicevano personaggi ben più autorevoli di me, diventano non solo dei sostegni alla tua interpretazione, ma diventano delle gabbie, diventano delle gabbie di ferro alle volte, diventano qualche cosa che mortifica nella ripetizione, nella routine, la possibilità di innovazione e di creatività. Ecco, ma dall'altra parte sono anche una garanzia: uno svolge il suo ruolo, è garantito perché lo svolge, ha qualcosa di già scritto. Infatti i ruoli sociali servono a questo, cioè non dire, l'umanità ha scoperto, ha inventato più che scoperto l'organizzazione, nel senso che era esattamente qualcosa che rispondeva al nostro bisogno, uno dei bisogni fondamentali, che è quello della sicurezza, e quindi serve a questo, no? Io so come comportarmi in determinati contesti. Certo che la sicurezza poi diventa anche una gabbia, perché noi abbiamo anche un'altra istanza, è la libertà, è il muoverci dalle gabbie per andare oltre. Quindi ci vuole un equilibrio tra la logica delle procedure. Allora il problema è imparare a stare tra, come diciamo noi in ismo, nel senso di non è tanto, come dire, non ci sono ruoli, non è tanto fantasia, come dire, così sbriciolata nel nulla, ma è imparare ad abitare i tanti tra che ci possono essere. Ad esempio, anche a, questa è una cosa che il teatro te lo insegna molto bene, cosa significa entrare e uscire da un ruolo per esprimere tante parti di sé. Noi, le nostre gabbie sono un po' queste, che non cambio mai postura, non cambio mai ruolo, anche se sono invece in rappresentazioni diverse, quindi divento una caricatura di me stesso, il manager che è sempre manager, il rampante che è sempre rampante, diseredato che è sempre solo vittima. Il problema è invece imparare a entrare e uscire, stare fra confini diversi, che è l'unica possibilità anche per cambiare confine. Ecco, in fondo, se siamo nella società del cambiamento, il cambiamento non deve essere solo degli altri. Assolutamente, anche perché è impossibile chiedere a qualcun altro di cambiare se non fai qualche mossa per cambiare. Penso che peraltro nella difficoltà oggi sostanzialmente di un... Non so se siamo in un mondo in trasformazione realmente, siamo in un mondo di vorticosi passaggi non digeriti, salti un po' di qua e un po' di là. Ancora con le note dell'Inno alla Gioia di Beethoven, proseguiamo il nostro incontro con Maria Giovanna Garuti, partner di ISMO. ISMO, una realtà associativa di consulenti d'impresa nell'ambito della formazione manageriale, della gestione delle risorse umane, della progettazione. Ecco, come stanno, Maria Giovanna Garuti, le imprese italiane? Abbiamo parlato alla fine della prima parte di un passaggio un po' confuso da una logica del cambiamento a una logica appunto che deve avere delle basi più solide. Come stanno le imprese italiane, anche se generalizzare è sempre un po' difficile? Ah, sì, generalizzare è un po' difficile. Come stanno? Allora, per tralascio che non è il mio campo, i dati economici, quelli che ci dà la Confindustria, quelli ovviamente sono noti, sono conosciuti. Come le vediamo noi che lavoriamo con le persone? Perché questo è l'altra, certo, è l'altro aspetto della medaglia. In questo momento, non so se sono una pessimista, credo, sento, vivo un po' di sofferenza, tanta sofferenza nelle persone. Una sofferenza che non è necessariamente legata alla paura, preoccupazione di perdere il posto di lavoro. Credo che alla, soprattutto i giovani, a questa dimensione un po' più aleatoria, si sono anche abituati, sono nati un po' con questa logica. La sofferenza noi la chiamiamo una sofferenza legata alle volte a una perdita di senso di ciò che stai facendo, con una perdita di senso rispetto al tuo lavoro, al valore aggiunto effettivo che tu dai al tuo lavoro. Siamo in un mondo di ipervalorizzazione della prestazione, dove devi sempre competere, ma alle volte ti sfugge il competere per cosa. Se io alla fine ottengo questo risultato morendo sul lavoro, ma perché? Che cosa ho ottenuto? Non solo come vengo riconosciuto di questo sforzo. Ecco, c'è una crisi un po' di senso del lavoro, crisi di significato del io sono valorizzato, riconosciuto o alla fine no. Ecco, ma questo perché prevale la logica, diciamo così, del consenso, della fedeltà alle procedure piuttosto che quella del riconoscimento del merito, della capacità, della professionalità, in fondo anche di chi rompe un po' le scatole all'interno dell'azienda perché vuole cambiare? Ma credo che sia proprio legato non tanto oggi come oggi, la routine, le procedure ci sono, continuano a esserci, ma d'altronde è inevitabile, però non sono più neanche nei valori aziendali, come dire, il punto di riferimento, perché basta che lei legga qualsiasi azienda italiana o estera, i principi, i valori su cui si fonda sono sempre l'innovazione, la passione, cose di questo genere. Però dietro a queste parole alle volte le persone sentono una finzione, nel senso che c'è un unico Dio sostanzialmente, business, prestazione, e poi la persona alla fine non sente davvero il riconoscimento del ma io dentro a questa macchina cosa sono, chi sono. E questo oggi è forse ancora più vero per quella che possiamo chiamare la questione femminile all'interno delle imprese? E questo è sempre, c'è sempre quest'altro aspetto, quest'altra faccia della medaglia, che sono le donne all'interno dell'organizzazione, dove qui assisto a uno strano paradosso, ma neanche strano. Allora, da una parte noi che veniamo dal 68 e che veniamo dagli anni 70, del femminismo degli anni 70, certamente tutta la politica, in qualche modo chiamiamola la politica dei diritti, ha fatto ha fatto il suo corso, ha dato anche dei vantaggi, per cui certo ci sono tante più donne, le donne si laureano, tutto quello che vogliamo. Però a prezzo di che cosa? Nel senso che di fatto abbiamo ancora tutte le dimensioni di distanza o di differenza, di fatica doppia che devono fare le donne. Dall'altro abbiamo una situazione in cui le donne, non esse stesse alle volte, non si riconoscono nel femminile, cioè hanno dovuto in qualche misura, per rispondere a questo obiettivo della prestazione, più che portare innovazione, alla fine si sono adattate al principio dell'organizzazione, il principio maschile. Quindi non hanno valorizzato la specificità femminile? No. E questo lei lo trova soprattutto man mano che sale nella scala gerarchica. Se guardo la mia esperienza, ovviamente qui continua a esserci quel famoso cristallo, soffitto di cristallo, man mano che si sale diminuiscono le donne nei vertici, ovviamente, e le donne che fanno carriera, nella mia esperienza, quindi non la generalizzo perché non è universale la mia esperienza, io le chiamo il più delle volte uome, nel senso che tra loro, manager, loro collega a fianco, loro capo, non c'è nessuna differenza, anzi alle volte hanno introiettato talmente tante logiche del business, io le chiamo le assatanate, cioè sono ancora più feroci rispetto ad alcune logiche di competizione, di prestazione, di quanto non lo siano i loro colleghi maschi, perché c'è stato un processo di imitazione. E per concludere, forse bisogna essere non ottimisti non solo per contratto, ma anche perché ci si crede al fatto che si possa sempre migliorare. Questo sicuramente. Io credo, ad esempio, per me è sempre stata una passione studiare, dove per studiare non vuol dire soltanto leggere libri, ma dove credo che ci sia questa idea del non sentirsi mai arrivati, cioè c'è sempre qualche altra cosa che posso conoscere, c'è qualche altro paese che posso esplorare, forse c'è qualche altra cosa che mi piacerebbe fare. Ecco, credo che questo tenere aperto quel pezzo di mi manca qualcosina sia quello che ci rende poi creativi. C'è sempre spazio per crescere, c'è sempre possibilità di fare cose nuove, c'è sempre possibilità appunto di avere delle soddisfazioni magari inaspettate. Io ringrazio Maria Grazia Garutti, partner di ISMO, di essere stata con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica e a settimana prossima.